Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16:33 minuti, Luca Tremola al microfono, che si ritrova in compagnia con Luca Dello Iacovo. Buongiorno. Che tifa Sudafrica. Tifo anche Sudafrica, prima posto Italia, però se non gioca l'Italia. Mamma mia, questi scienziati che tifano non per la nazionale, ma per si tifa per la nazionale, però si tifa anche per Non ci crede nessuno. Non ci crede nessuno. Sentiamo le news e poi torniamo in trasmissione, anche perché il tema della puntata, dobbiamo dirlo, è la luce, gli spin-off. La luce, lo spin-off della luce, le aziende che lavorano con l'energia, il sottoprodotto sarà l'illuminazione, sarà la creazione di progetti poi per l'utilizzo della luce e la generazione di energia, ma sono soprattutto poi progetti che vengono fatti in Italia, che vengono costruiti a partire poi anche dall'indotto di Forza locale. Sudafrica? Forza Italia e Forza Sudafrica. Le news. Un software per scrivere senza schiacciare i tasti, ma passando un dito sul display. È in grado di riconoscere le parole digitate dagli utenti a partire dalle prime lettere e permette un risparmio del 30% sul tempo impiegato per scrivere messaggi. Il nome del software è Swipe ed è progettato per gli smartphone con schermo touch. A lanciarlo è stata la coreana Samsung. Il social network LinkedIn accelera la corsa. Gli iscritti sono diventati 70 milioni e adesso punta sulle applicazioni software per la telefonia mobile. LinkedIn è una rete sociale dedicata ai professionisti e ai contatti di lavoro. In Italia gli iscritti sono quasi 1 milione e i social network sono la categoria di applicazioni più utilizzata dai cellulari. Passiamo alle scienze. La Coppa del Mondo inquina quanto 1 milione di veicoli. Le previsioni per le emissioni di anidride carbonica arrivano a 2,7 milioni di tonnellate in un mese. I trasporti internazionali sono la fonte principale di CO2, seguiti dagli spostamenti come i mezzi urbani. Le due città più inquinate in Sudafrica sono Johannesburg e Cape Town. Eccoci in trasmissione, sono le 16:36, quindi abbiamo detto che parliamo di spin-off della luce. In particolare abbiamo in collegamento Elianto nella persona di Pietro Pili, l'amministratore delegato. Buongiorno. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Allora, prima di chiacchierare con lei e cercare di capire che cosa vi siete inventati, che cosa state realizzando, sentiamo la scheda che ha realizzato Luca Dello Iacovo, che un po' riassume gli asset, i fondamenti dell'azienda. Ha detto giusto? Ti piacciono i fondamenti? Sì, mi piace. Tieni anche la nazionale? Vabbè. Sì. La scheda. Un campo di specchi per catturare l'energia della luce. Si orientano come girasoli per raccogliere i raggi luminosi e garantire l'efficienza dell'impianto. È la scommessa di Elianto, un'azienda spin-off del centro di ricerca CRS 4 a Cagliari. È nata 3 anni fa per progettare e costruire un impianto solare termodinamico di piccole dimensioni. Hanno adattato le tecnologie utilizzate da grandi strutture a una scala ridotta. La gestione del sistema è affidata a un software sviluppato dagli ingegneri di Elianto e consente l'accesso dall'esterno del campo solare. L'obiettivo è di generare energia elettrica e di immagazzinare calore in serbatoi con applicazioni nell'agroindustria. Allora, se abbiamo capito bene, insomma, è il caro buon vecchio solare, no? Sì, quello che fatica un po' con gli incentivi, che no? No, gli incentivi ci sono ormai da 2 anni, è difficile, diciamo, sono pensati, diciamo, per le grandi scale di realizzazione, per cui i tempi tecnici per l'installazione di una prima centrale sono piuttosto lunghi, quindi da qui il minore utilizzo di questi incentivi, ma ci sono già da 2 anni. Ecco, ma voi che energia, cioè vediamo di capire anche i quantitativi di energia, su che... Allora, noi, il nostro sistema è tarato per un'energia intorno ai megawatt di potenza elettrica, quindi sostanzialmente produce, senza dare troppi numeri, 2.2 gigawatt ore all'anno. No, magari diciamo i nostri ascoltatori sono preparatissimi, cioè... Ah. Non... Ok, quindi producono un po' di più del solare fotovoltaico, quello posizionato a terra, e ancora di più un pochino di più di quello in seguimento. In compenso, però, cioè, qual è il trucco? Qual è la cosa che... La differenza è che il nostro sistema può produrre energia elettrica pianificandola. Quindi noi accumuliamo l'energia termica sotto forma di calore e poi possiamo produrre energia elettrica su domanda. E questo ovviamente cambia sostanzialmente il modo di produrre, il modo di mettere in rete l'energia. Su domanda che cosa significa? Scusi? Su domanda che cosa significa? Cioè che l'IBM on demand, cioè il... No, significa che è possibile produrre l'energia elettrica dopo qualche ora... in cui il sole è già andato via. Quindi e come fate? Racconti meglio come fate, cioè voi la stoccate in serbatoi? Sì. La stoccate processo... perché evapora? Sì, noi stocchiamo in serbatoi un olio diatermico e poi questo olio diatermico ad alta temperatura viene alimentato. Cos'è l'olio diatermico? L'olio diatermico è il vettore con cui noi trasferiamo il calore prodotto dall'energia solare in un fluido, appunto detto olio diatermico, che è quello tipico che viene utilizzato in impianti industriali per alimentare le centrali. Diciamo. E che forma ha? Tanto così per immaginarcelo, per avere una parola così complessa. È equivalente a un olio della macchina, sostanzialmente. Ah, quindi è un colore simile anche? Sì, è un colore simile. Non è tossico il nostro olio. Però non si condisce l'insalata? No. No, tipicamente no. Ovviamente no, non si condisce l'insalata. Stai facendo dei gesti dello Iacomo perché ho detto una stupidata, è vero, comunque, però andiamo avanti. Sì, ma l'olio dell'insalata non ha le proprietà per resistere alle alte temperature, quindi questa è la differenza fondamentale. Ecco, quindi viene stoccato, viene conservato e poi alla bisogna, come si suol dire, può essere utilizzato. Ma La differenza anche poi rispetto ad altri impianti di questo tipo è, come abbiamo sentito anche prima, è la taglia. Cioè, mentre in genere gli impianti di solare termodinamico sono molto grandi, c'è cioè un progetto molto importante giù in Sicilia che è legato al solare termodinamico ed è stato proposto poi da Carlo Rubbia. Nel caso invece di Elianto l'idea è quella di ridurre la scala dell'impianto e poi credo che ci sia anche l'idea che può essere gestito dall'esterno, cioè può essere gestito senza un diretto intervento umano, giusto? Sì, questa è la caratteristica di questi impianti. Sostanzialmente devono essere equivalenti ai loro antagonisti, quindi al solare fotovoltaico, che non ha bisogno di personale per la gestione, ma solo per la manutenzione. Allo stesso modo questi impianti non hanno bisogno di personale a bordo e quindi sono in grado di funzionare in maniera completamente automatica con un controllo remoto da parte di personale specializzato, che ha il compito sostanzialmente di vedere se tutto sta andando bene e comunque di ottimizzare il processo di produzione di energia elettrica. E se lo dovessi immaginare questo impianto... Io immagino un grande campo dove ci sono degli specchi e questi specchi poi convogliano la luce sull'olio diatermico, su dei tubi dove scorre l'olio diatermico, è corretto? Sì, correttissimo. Gli specchi poi usano quindi un principio vecchissimo che è anche un po' quello che fu usato da Archimede, anche se ovviamente non sono gli stessi specchi, però è l'idea appunto di utilizzare l'energia del sole, quindi è una tecnologia molto antica che però è stata riadattata a esigenze moderne. Sì, esattamente. Questa tecnologia... Cioè, quindi c'è poca tecnologia, voleva dire, dello Iacomo, avete reinventato Archimede, non è vero, però insomma... Sì, ma è così, cioè, i principi sono quelli, ci sono da ormai del 2000, da sempre, quindi concentrare la luce per riscaldare degli oggetti o cercare di bruciare navi è un'idea antica. L'innovazione, se i tempi moderni aiutano nel fare questo in maniera molto più economica ed efficiente, quindi tutta la ricerca è condotta sui materiali, per esempio il tubo ricevitore è un materiale segreto, composto da materiali altamente innovativi. Quando dice innovativo vuol dire che ha una formula segreta che ce l'avete solo voi, che l'avete realizzata? I tubi ricevitori, tra cui c'è una un'interessante industria in Italia, che è l'industria leader al mondo, la si chiama Gelantoni Industrie, Archimede Solan Energy in particolare, detiene il brevetto poi sviluppato da Enea, che permette a questi tubi di arrivare a temperature elevatissime, senza bruciarsi, intorno ai 550 gradi, ed è l'innovazione, diciamo, che ha permesso a questa tecnologia di ottenere ancora ulteriori vantaggi dal punto di vista competitivo. E infatti c'è anche un report del Politecnico di Milano sull'indotto dell'industria italiana che è impegnata nell'utilizzo dell'energia solare, che racconta anche poi di quanto ci sia un indotto per il solare termodinamico che è avanzato, cioè sono piccole e medie imprese che sono impegnate in questo settore e sono all'avanguardia nel mondo. Ecco, io però volevo fare una domanda. Di solito noi presentiamo queste, abbiamo dato vita a questo filone di racconti di aziende, di spin-off, per cercare insomma di dare un volto, una voce a un settore nuovo, innovativo, ma volevamo anche capire insomma a che cosa vi serve, cioè a questo punto del vostro sviluppo. Siete in una fase in cui viaggiate benissimo, fate quintali di quattrini, non avete bisogno di nessuno. Risposta A. Risposta B: state cercando un venture capital. Risposta C: cercate un rapporto più stretto con l'università. Risposta D: non lo so, però è scaduto il tempo, per cui insomma le domande le resti con noi, diamo la linea al traffico, poi torniamo con ABCDD. Nova Lab 24. Rieccoci in onda, 16:46, stavamo chiacchierando con Piero Pili di Elianto e insomma la domanda era insomma, vabbè, a questo punto deve barrare la casella adesso. Casella B, abbiamo necessità di risorse economiche ovviamente, e queste possono essere fornite o da parte finanziaria, che sono i famosi venture capital, oppure famosi da parte perché dei, sono talmente industriali. Famosi perché sono talmente famosi che no, sono famosi perché non li si trova, sono esatto, difficili da convincere. Ecco, ma di quanto all'incirca? Tipicamente la nostra necessità riguarda la realizzazione del prototipo precommerciale. Perfetto. Okay. E quindi ha una necessità di una scala che dimostra il prodotto sostanzialmente, che quindi convinca anche i futuri clienti, a riduca le incertezze derivate all'uso. Quindi insomma looking for, aspettando il prototipo, bisogna realizzarlo concretamente. Noi abbiamo realizzato un prototipo di piccolissima scala, ovviamente, che dimostra che la tecnologia funziona, e quindi siamo pronti per accedere alla seconda fase dei prototipi, che sono quelli pre-commerciali, pre-industriali. Grazie Pili e in bocca al lupo. Grazie Pili di Elianto e in bocca al lupo. Noi abbiamo un secondo spin-off in attesa, lui si chiama Thomas Brown, buongiorno. Buongiorno a voi. Non è il Thomas Brown il nome dello spin-off, lo spin-off è Dyers e fa parte poi del consorzio dei Power. Perfetto, lanciamo la scheda. Celle solari flessibili, colorate o semitrasparenti. È la promessa del fotovoltaico di terza generazione. Alcuni prodotti sono già arrivati in mercati di nicchia, come le borse da viaggio. Ma nei laboratori i ricercatori hanno ancora tanta strada da fare. In Italia alcuni puntano sull'edilizia sostenibile. L'obiettivo da raggiungere è la costruzione di pareti e vetri in grado di generare energia elettrica attraverso celle solari organiche. Alla gara globale partecipa l'Università di Roma Tor Vergata con il polo CHOSE. È una struttura che ha debuttato 4 anni fa e adesso può contare su un team multidisciplinare di ricercatori e impianti all'avanguardia. Ha lanciato un consorzio, Dai Power, finanziato anche da partner industriali, e uno spin-off, Dyers. Allora, Thomas Brown, professore associato di Tor Vergata, Dipartimento di Ingegneria Elettronica, lei ci deve spiegare bene che cosa producete. O almeno su che cosa state lavorando, sì, in questa fase della ricerca, che poi porterà, diciamo, al trasferimento tecnologico e poi alla fase commerciale. Certo, allora, noi stiamo lavorando su dei pannelli fotovoltaici organici, dove invece di usare dei semiconduttori cristallini come il silicio, la parte fotoattiva che assorbe la luce solare è un pigmento organico, quindi sintetizzato chimicamente. E può essere anche il mirtillo, giusto? Sì, diciamo, è possibile fare celle solari anche con frutti di bosco, naturalmente queste hanno efficienze, ecco, ma quanto più basse rispetto, cioè, ecco, a molecole sintetizzate. Ecco, il mirtillo, per esempio, quanto, che efficienza ha? Beh, si gira intorno all'1%, sì, è una cosa... può anche arrivare al 2%, mentre con i pigmenti sintetizzati ad hoc, diciamo, il record mondiale si aggira intorno all'11%. Ecco, anche... siamo quindi a efficienze simili a quelle del silice amorfo. Ok, ecco, anche per lei la domanda che facciamo sempre durante la trasmissione è: a questo punto del vostro sviluppo, di che cosa avete bisogno? Investimenti, know-how? Beh, sia investimenti, ma soprattutto di know-how. Come diceva lei, a livello di questa nuova tecnologia bisogna mettere insieme il know-how di vari profili, dall'ingegnere al chimico allo scienziato dei materiali. E quindi l'importante è proprio mettere insieme un team interdisciplinare. Le faccio un esempio, ecco. Uno dei grossi vantaggi di questo tipo di tecnologia è che i materiali fotoattivi possono essere disciolti in inchiostri oppure formulati sotto forma di paste, quindi è possibile, anzi questo è proprio il vantaggio, depositare i materiali con tecniche di stampa, e quindi tutto il know-how per esempio dell'industria della stampa. E può essere anche applicato poi per pareti e per altri tipi. Per altre cose. Purtroppo il tempo è scaduto, il mondiale incombe, devono dare i risultati. Noi la salutiamo, metteremo un po' di informazioni su Facebook e su Nova Lab 24. Io la ringrazio, Thomas Brown, ringrazio anche Luca Dello Iacovo. Domani 16:30, Nova Lab 24, arrivederci. Nova Lab 24.